Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. I watched the film online and I would call it fear-mongering at best. At its worst, viviamo nell'epoca della comunicazione e della cultura visuale. Tutto per esistere deve essere visto, anzi, deve essere concepito per la visione. Un uomo medioevale, nel corso di tutta la sua vita, dalla nascita alla morte, poteva trovarsi davanti al massimo 40 immagini. Un uomo contemporaneo è sottoposto a un bombardamento di qualcosa come 600.000 immagini artificiali al giorno. Oggi a Destini Incrociati parliamo di sguardo, verità e finzione. La nostra è una realtà mediatica che genera un rincorrersi continuo tra vero e falso, fino a provocare una vera e propria confusione. Un'impossibilità di distinguere tra reale e virtuale. Anche se non siamo mai andati davvero a New York, la conosciamo, ne conosciamo le strade, il profilo con i grattacieli, i parchi, perché tutto questo ci è stato raccontato da film, libri, serie TV. Possiamo avere finti profili su Facebook, vivere un'esistenza che non è la nostra nei videogiochi, chiudere gli occhi e chiederci infine se il mondo stesso è realtà o finzione. Proprio come fa Neo, il protagonista di Matrix, film epocale dei fratelli Wachowski. Hai lo sguardo di un uomo che accetta quello che vede solo perché aspetta di risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità. Tu credi nel destino, Neo? No. Perché no? Perché non mi piace l'idea di non poter gestire la mia vita. Capisco perfettamente ciò che intendi. Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. La storia di oggi è sorprendente e unica e vi confonderà le idee fino a chiedervi se la vostra casa esiste, se il vostro vicino esiste, perfino se voi esistete o siete solo il prodotto della vostra fantasia. Per cominciare questa avventura, entriamo nella redazione di un grande magazine, il New York. Il New York è un settimanale di stile, cultura e politica nato nel 1968 per fronteggiare il New Yorker, già di grande tiratura. All'inizio, tra i due, il secondo è decisamente vincente, con i suoi grandi collaboratori e le storie che superano i confini della grande mela. Ma poco a poco il cucciolo riesce a spiccare il volo e a trovare la sua particolarità. Punta tutto sulle complicatissime parole crociate che diventano un vero e proprio cult per i newyorkesi doc. Nella realtà è sullo schermo. Due su tutti? Woody Allen, il grande cantore di Manhattan, e Carrie Bradshaw, protagonista della serie Sex and the City e icona glamour. Le parole crociate sono un piccolo vezzo, ma sufficiente a catturare migliaia di lettori, così come la versione web del giornale. Il suo sito internet attualmente sfiora una media di 7 milioni di contatti al mese e si dimostra un efficace ponte sul nuovo millennio, una lungimiranza che Marco Pratellesi, giornalista e docente universitario, spiega così. La vera partenza di internet in poi tutto il mondo risale più o meno agli anni intorno al 98-99, quando si prefigurava la stagione della New Economy e quando poi si è andata la stagione della New Economy, che ovviamente ha convinto gli editori a investire perché avevano un guadagno concreto dagli investimenti sull'online. Insomma, il New York è un giornale vivo, vibrante, nuovo, che sembra intuire cosa succederà nel mondo. Come quando nel 1976 il giornalista Nick Cohn scrive per il numero in uscita un racconto che parla di un ragazzo della working class di Brooklyn, che una volta alla settimana si infila un paio di pantaloni a zampa d'elefante, camicia sbottonata e gel nei capelli e va a ballare la disco music in un locale sulla cresta dell'onda. Un produttore lo legge, ne acquista i diritti e la storia diventa niente meno che La febbre del sabato sera, con un indimenticabile John Travolta nei panni di Tony Manero. Buon tegno, ragazzi, facciamo un'entrata trionfale. Interviste insolite e ironiche a personaggi del calibro del coreografo Georges Balanchine, del pittore Pablo Picasso, guida dei ristoranti che diventa una vera Bibbia per chi vive in città, grafica mirabolante con illustrazioni che fanno il giro del mondo. Tutto questo oggi è il magazine New York. Ed è qui, a una scrivania della redazione, che incontriamo il nostro primo protagonista, un giovane art director, eccentrico e geniale, che si chiama Josh Gosfield. Josh Gosfield. Josh Gosfield si diverte a depistare chi vuole mettersi sulle sue tracce. Poche interviste e confusione sulla sua biografia, scarso materiale che lo riguarda. Tanto che i media quasi si arrendono e ne parlano così. Di questo giovane talentuoso artista, pieno di frizzanti idee di cui tutti parlano, si sa veramente poco. Un paio di interviste veloci, nessuna apparizione pubblica e tanta mitologia creata dai media. Quasi tutto quello che si sa di lui è uscito dalla bocca di suo padre, il grande cantante e chitarrista blues Reuben Gosfield, conosciuto come Lucky Oceans. Mio figlio Josh è sempre stato il più schivo di tutti, fin da quando era piccolo. Gli altri ragazzi erano felici delle attenzioni su di me. Lui sembrava esserne disturbato. Gli altri ragazzi sono i fratelli di Josh. Avery, che fa anche lui il musicista e vive a Milano, e Anne, improvvisatrice e compositrice dell'avanguardia newyorkese. Josh, cresciuto come tutti loro a Filadelfia, nel perenne sottofondo jazz di Ellington e Armstrong, prova anche lui a suonare. Ma la cosa, per quanto lo possa divertire, non lo soddisfa fino in fondo. Mi sembrava un po' banale. Non so, ho provato con il piano, ho provato con la tromba, ma non ero così bravo da spiccare il volo. Gli adolescenti, si sa, sono spesso problematici e indecisi sul loro futuro. E così anche per Josh, che però trova nella confusione la risposta ai suoi dubbi. Non serve avere un'idea chiara, basta avere chiaro uno spirito, una sensazione, una voglia. Josh sperimenta, studia, legge, scrive. Lavora come operaio, come cameriere in un fast food, come ragazzo dei giornali. Non tanto perché ha bisogno di soldi, papà gli dà tutto ciò di cui ha bisogno, ma per la pura necessità di conoscersi, di scoprirsi, di imparare da ogni esperienza. Da questo può uscire la più illuminante delle visioni. Contaminazione era la parola chiave. Io non sapevo scegliere, ma neanche volevo scegliere. Si trattava solo di aspettare, di rimboccarsi le maniche. La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti, cantava John Lennon. E Josh, un giorno, mentre sta tagliando il prato di una signora non troppo distante da casa, senza accorgersene, si improvvisa artista. È stato un bidone ad incuriosirlo. L'ha umanizzato, lo ha riempito di oggetti e ne è saltata fuori una vera e propria opera. La padrona di casa, al suo ritorno dal lavoro, la vede, gli chiede spiegazioni e decide di tenerla in giardino. È l'inizio per Josh di una nuova vita. Sono gli anni 90 e il posto giusto per il giovane Josh è New York, la grande mela, il centro del mondo. È qui che converge la creatività e il periodo delle fertili sottoculture americane, una scena che ha ispirato la creatività di numerosi artisti, considerati oggi le nuove stelle dell'arte contemporanea. In particolare è la street art a dominare, l'arte di strada, realizzata sul filo della legalità da giovani anticonformisti, grandi scarpe da basket e cappellino da baseball, attratti dal mondo dello skateboard, della musica, musica e dai film indipendenti, dai graffiti. A raccontare quel mondo è il film documentario Beautiful Losers, Splendidi Perdenti, diretto da Aaron Rose. It's communication, like the simplest form. Doesn't have any of the gross trappings of the art world or anything. Questo manipolo di eroi metropolitani in attività dagli anni Ottanta si è divertito a spiazzare, a confondere i benpensanti, a provocare con strumenti facili come bombolette e colori. Le figure sui muri, sulle case, in giro per la città, hanno finito per diventare parte del paesaggio. La street art stessa si è infilata nell'arte istituzionalizzata, catturando l'interesse del grande pubblico, ed è stata, contro ogni aspettativa, legittimata dalla critica. A raccontarlo è il giornalista Fabio Bordighi. Street art negli anni Ottanta era sinonimo di rivoluzione, il colore che iniziava a invadere la città, un nuovo modo di vedere e comunicare l'arte. Oggi il quadro è cambiato e dopo derive e ribaltamenti la street art ha fatto il suo ingresso nei musei, passando dalla porta principale. La street art incuriosisce immediatamente il giovane Josh, che si cimenta per la strada a imitare i grandi nomi del momento, Mike Mills, Shepard Fairey, Chris Johansson e soprattutto Spike Jonze, quotatissimo ed eclettico che è diventato il grande regista di Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee, oltre che essere balzato al centro dei gossip per avere sposato Sofia Coppola, figlia di Francis Ford e anche lei regista. Josh è uno che impara in fretta e soprattutto ha un talento innato che gli fa portare un tocco personale in tutto quello che fa. I suoi lavori improvvisati sui muri e marciapiedi vengono notati da un editor del New York, grande magazine di stile e cultura, che lo contatta per un colloquio. Ero emozionatissimo. Non credevo alle mie orecchie. Mi mantenevo lavorando in un bar e quando riuscivo dipingevo, ma non avrei mai creduto che la mia voglia di sperimentare potesse essere pagata da qualcuno. E poi proprio il New York. Mi sembrava incredibile. Io lo compravo soltanto per le parole crociate. Josh diventa redattore e in poco tempo art director. Si occupa della sezione artistica e della pubblicità. Mescola letteratura e cinema, musica e pittura per dare un valore aggiunto al giornale. Il valore della contaminazione. D'altra parte, il grande tratto distintivo della modernità è la convivenza tra cultura alta e bassa, proprio come insegna la pop art, che per l'arte usa tutto ciò che è quotidiano. E Josh in questo è un grande maestro. Diventa il punto di riferimento per New York. Lo chiamano per consulenze di marketing, di moda, di design. Quando chiama a casa, racconta a suo padre di essere entusiasta. Mi diceva che a New York aveva trovato la sua strada, che faceva quello che gli piaceva. Eppure sentivo che c'era qualcosa che gli mancava. Quello che gli manca per un ragazzo come lui, abituato a rimboccarsi le maniche, è un progetto tutto suo, dall'inizio alla fine. Idea, abbozzo, creazione, messa a punto, confezione, tutta la catena nelle sue mani. Come editor è il punto più alto di un ciclo, ma di un ciclo che non gestisce interamente. I padri spesso non si sbagliano e Lucky Oceans, il papà di Josh, ha una marcia in più perché fa il musicista e sa cosa significa avere un pubblico che apprezza un lavoro di cui sei totalmente l'artefice. Papà aveva ragione. Ero contento di quello che facevo, ma non mi bastava più. Volevo lasciare il segno nel mondo dell'arte, lasciare un'impronta tutta mia. Tutt'altro che facile agli albori del terzo millennio, quando tutto sembra essere già stato inventato. C'è stato Andy Warhol che ha sdoganato l'inimmaginabile. Come si fa a stupire ancora? Soprattutto in un mercato più aperto, meno elitario, in cui grazie a internet e alle nuove tecnologie qualsiasi cosa è possibile. E un ragazzino di 12 anni può girare un video e metterlo su YouTube. Una democratizzazione dell'arte che non è sempre positiva, soprattutto per gli artisti veri come Josh. Raccontarlo ancora una volta è il giornalista Fabio Bordighi. Il vero problema per qualcuno che vuole farsi conoscere dal pubblico non sta nel trovare un nome alla propria arte, ma nelle mode che soffocano il mercato. E così Josh, intuitivo come sempre, inizia a rifuggire la contemporaneità per rifugiarsi nel passato, in cerca di ispirazione. Legge, si documenta, entra con tutto se stesso in un mondo in cui non era ancora nato, ma che può conoscere grazie ai giornali, video e interviste. Parliamo degli anni 60, detti anche anni yeah yeah, con riferimento alla moda musicale francese che ha avuto un largo seguito popolare, soprattutto tra gli adolescenti, negli anni tra il 1959 e il 1968. La parola yeah yeah, più un suono che un significato, veniva aggiunta negli adattamenti fatti in fretta e furia dai successi rock e twist degli Stati Uniti. Queste due sillabe permettevano di rilanciare il ritmo e di mascherare le parole mancanti. Per estensione, questa espressione ha designato prima lo stile musicale e poi i cantanti stessi. Infine, un fenomeno di moda che annovera tra le sue protagoniste francesi Sylvie Vartan, Brigitte Bardot e in Italia Rita Pavone e Caterina Caselli di Nessuno mi può giudicare. Ragazze moderne per l'epoca, anticonformiste, provocatorie e un po' monelle, alla moda, con minigonne e frangetta, che hanno segnato un periodo. Josh ne è particolarmente attratto, non sa ancora perché, ma le ragazze yeah yeah lo catturano. Sentivo che stava per succedere qualcosa. Avevo una sensazione mai provata, come se il progetto della mia vita stesse lentamente prendendo forma. Era ancora solo una suggestione, ma sentivo che la mia vita stava per cambiare per sempre. A Destini Incrociati siamo all'inizio del terzo millennio e New York è la città che meglio rappresenta il passaggio al 2000. Josh Gosfield è un eclettico fotografo, performer, artista, pubblicitario che lavora come art director per la rivista New York. Eventi mondani, successi personali, un bel appartamento, amici intellettuali e amiche modelle. Josh sembra avere tutto dalla vita, eppure non si sente soddisfatto fino in fondo. Non è ingordigia, ma voglia di dimostrare a se stesso, prima che agli altri, di avere fatto qualcosa dall'inizio alla fine, tutto da solo. Non ero ingrato. Non volevo strafare, sentivo soltanto l'esigenza, giovane com'ero, di mettermi alla prova con un progetto tutto mio. Josh ha nella testa le immagini delle riviste degli anni 60, che ritraggono in copertina ragazze yeah yeah, maglie rigate, spirito sbarazzino e canzonette leggere e divertenti, che fanno contrasto alla musica impegnata e ai cantautori. Pensa che da questo mondo possa uscire qualcosa di buono, dal sapore retro, molto diverso da quello che va di moda al momento. Però giorno dopo giorno, mentre continua come sempre il suo lavoro di editor, sente la frustrazione di non farcela. Fino a un episodio a dir poco illuminante. Primavera 2008, casa di Josh, ultimo piano di un palazzo nel cuore di Manhattan. È una vecchia fabbrica da cui sono stati ricavati diversi loft, spazi aperti senza pareti interne, grandi finestroni che vanno dal soffitto al pavimento, perché scuro, nessuna tenda. Josh ha organizzato una serata con gli amici, niente di impegnativo. Cucina indiana takeaway, qualche bicchiere di vino e un film. Jason, un giornalista che è stato tra i primi suoi contatti newyorkesi, ha scelto il titolo, Simon. Del 2002 con Al Pacino, scritto e diretto da Andrew Niccol, già autore di Gattaca e The Truman Show, entrambi sulla confusione tra verità e finzione. Simone appears only when I want her to appear. She's beautiful. She's talented. Why are we here? She's virtually perfect. Virtualmente perfetta, ecco com'è Simone, la protagonista del film. La trama è questa. Victor Taransky, regista in crisi dopo vari film senza successo, si inventa, con un software informatico, una donna virtuale, bionda, bellissima, impeccabile, e la fa esordire in un film diretto da lui grazie ad effetti speciali. Il film riscuote un successo straordinario e in seguito il pubblico e i media pretendono di vedere e intervistare la splendida e inesistente attrice. Victor, con varie escamotage a tecnologici, riesce a tenere nascosto il suo segreto. In breve tempo Simone diventa l'idolo dei telespettatori, uomini e donne che siano, che rispettivamente si innamorano e invidiano l'attrice. È la rivincita di Victor sul mondo e deve tutto a Simone finché lei inizia a sovrastarlo. Il virtuale diventa più interessante e vero del reale. In Victor nascono sentimenti di invidia e odio verso Simone. Così decide di farla morire, così come l'ha fatta nascere, attraverso i media. Per Josh, che da un punto del film in poi inizia a prendere appunti, è una vera e propria folgorazione. Non era fantascienza. Era un film sul potere dei media, sulla capacità che i media hanno di convincerci che qualcosa è reale ed esiste, quando invece non è vero. La critica e gli accademici passavano il tempo a cercare di dimostrarlo. Io, come Al Pacino nel film, volevo dimostrare che potevo far credere al pubblico tutto quello che volevo. Il film Simone per Josh Gosfield è stato un'illuminazione. Vuole anche lui inventarsi da zero una diva e far credere a tutti, media e pubblico, che esiste veramente. Anzi, che è esistita veramente. E questo è il suo progetto. Vuole creare dal nulla, nel 2009, una pop star degli anni 60. Una ragazza yeye francese di quelle che l'hanno incuriosito sulla copertina di tante riviste. Nella sua mente si affollano le suggestioni e istintivamente un nome. La chiamerà Gigi Gaston. Gigi Gaston. È entusiasta, ma ha pudore a dirlo. Ha paura che lo pensino pazzo, che i suoi amici ritengano che sia una follia. E invece l'idea è accolta in modo caloroso. Tutti lo vogliono aiutare, tutti vogliono contribuire a creare il mito. Una ragazza bulgara, la nuova fidanzata di un suo amico, l'ultima arrivata, balza in piedi. Vuole essere lei a dare corpo e volto a Gigi. Fa la modella e il suo nome è Elisaveta Stoilova. Elisaveta Stoilova. Tratti marcati, zigomi pronunciati. Elisaveta è arrivata a New York giovanissima, insieme a migliaia di altre bellissime dell'Est Europa, piena di speranze. E infatti da subito ha lavorato, ma diventando una delle tante. Prendevo qualsiasi lavoro, cataloghi di supermercati perfino. Hanno usato le mie mani per la pubblicità di un detersivo. Ogni tanto me lo ricordo e ci rido sopra. Non è facile mantenersi facendo la modella e in una città come New York la concorrenza è spietata. È finita l'epoca delle grandi top degli anni 90 che sono diventate dei miti intramontabili. Oggi a 25 anni sei già vecchia da rimpiazzare e con un chilo in più sei fuori. E questo è il gioco. Un problema enorme è quello dell'anoressia che è diventato parte integrante del dibattito sulla moda negli ultimi anni con provvedimenti più o meno provocatori subito ripresi dai media. Sei splendide modelle oversize. Aisha e Leonora, Elisa, Miriam, Marina e Valentina hanno ideato insieme a Jonas Ornus il progetto Curvy Can, che riprende il più celebre Yes We Can d'oltreoceano. Una campagna nazionale di sensibilizzazione contro l'anoressia, proprio nella settimana che precede le sfilate milanesi, di cui loro stesse saranno protagoniste. La campagna ha lo scopo di far capire che la bellezza è una conquista che nasce da dentro, dalla consapevolezza del proprio corpo e dalla valorizzazione di quelle caratteristiche personali che ci rendono originali e uniche. Per fare ciò hanno deciso di posare senza veli al grido di I'm not a fashion victim. Elisaveta, dalla sua parte, ha misure perfette, 86-61-87. Forme nei punti giusti, occhi verdissimi e gambe chilometriche. Si presenta a tutti i casting con le sue scarpe da ginnastica comodissime per prendere i mezzi che sostituisce al momento giusto con i tacchi a spillo che tiene in borsa, un'abitudine di gran parte delle donne di New York. Qualche volta ottiene di sfilare, altre volte torna a casa senza niente. Per un periodo ho fatto anche la dog sitter. C'è tanta richiesta in città, molte coppie fanno lavori impegnativi e hanno bisogno di qualcuno che gli porti a spasso il cane. È una ragazza che si sa inventare, Elisaveta, che non si perde d'animo, abituata com'è fin da piccola ad arrangiarsi. Non ha potuto studiare per aiutare in casa la mamma e non si è mai lamentata, non si è mai sentita privata della sua spensieratezza. Al contrario, ha sempre pensato di essere fortunata, perché poteva rimboccarsi le maniche e decidere da zero come costruirsi una vita. Sono sempre stata ottimista e ho sempre creduto molto nel destino. La fortuna, mi dicevo, arriva quando deve arrivare. Il destino si è già messo in moto per dare le svolte della tua vita, anche prima che tu te ne renda conto. E infatti il destino, per Elisaveta, arriva in quel loft a Manhattan, alla cena con gli amici, dopo aver visto insieme al padrone di casa, Josh Gosfield, il film Simon. Josh, ispirandosi alla trama, ha deciso che si inventerà totalmente una figura degli anni 60. Una pop star idolo dei teenager a cui Elisaveta darà corpo e volto. Lo scopo è convincere tutti che quella creatura nata dal nulla, nome di invenzione Gigi Gaston, è realmente esistita. Quello che ancora nessuno dei due sa è che l'idea a cui stanno brindando diventerà ben più che un gioco. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. Destini incrociati. A Destini Incrociati è il 2009. Siamo nella New York creativa e modaiola che cattura gli artisti di tutto il mondo. Josh Gosfield è un ragazzo che fa l'art director presso il magazine New York e ha in mente un progetto strepitoso che coinvolge la modella bulgara Elisaveta Stoilova, bellissima, solare. Si tratta di prendere Elisaveta, farla diventare Gigi Gaston, un'immaginaria ragazza yeye francese degli anni 60. Ho accettato subito perché mi sembrava divertente. Non avevo grandi aspettative. In quel periodo non stavo lavorando granché e mi sembrava un modo per occupare il tempo. Josh, armato di una Nikon e con la complicità di Photoshop, inizia a fotografare Elisaveta per ricostruire pezzo a pezzo la vita immaginaria di Gigi Gaston. Poster, dischi, articoli, ricrea tutto con lo stile dell'epoca e un'attenzione maniacale. E mentre scatta, nasce la storia mitica e totalmente inventata di Gigi. Sono i media di quegli anni a raccontarla. Una finta copertina in cui Gigi è tra i Beatles, che la adorano, tanto che John Lennon avrebbe scritto per lei il successo planetario Je suis perdu. Je suis perdu. Il finto dolore di Serge Gainsbourg, autore di un testo da lei sempre rifiutato. Il fotomontaggio in cui Gigi e Elisaveta balla sexy tra i tavoli dei caffè parigini con Sylvie Vartan. E la polemica tutta inventata, secondo cui, per Gloria Steinman, sarebbe stata il vero ostacolo alla causa femminista. Yves Saint Laurent, che faceva a gara per vestirla. Kate Richards, che se la sognava la notte. Un pacchetto di sigarette gitane con la sua immagine. E i tabloid di tutto il mondo, rispettati filologicamente nell'estetica e nel formato, che parlano di lei. Tutto è inventato da Josh Gosfield con l'aiuto di Elisaveta Stoilova. Era incredibile. Io ed Elisaveta stavamo creando un mito da soli, un'icona glamour, una star. Nella mia testa voleva essere un messaggio forte e chiaro. Qualsiasi successo oggi può essere creato a tavolino. Quella di Gigi Gaston è una parabola, un romanzo spettacolare che culmina nel tragico. Nasce in Bulgaria, ha origini gitane, proprio come Elisaveta, ma si trasferisce in Francia per via della guerra e delle persecuzioni. Rimane orfana e viene adottata da un'altra famiglia. Il tutto documentato da finti biografi e finti fratelli, che ne parlano come se lei fosse realmente esistita, ma che sono semplicemente gli amici di Josh, che hanno deciso di aiutarlo. Finta copertina di Gigi che si sposa con il finto attore italiano Giorgio Fortuna, finto scoop della sua gravidanza, finto tradimento di lui, finto omicidio da parte di un'esasperata Gigi e finto lieto fine con una copertina sulla sua assoluzione al processo. Fino alla scomparsa, nel 1973, con svariate pagine di magazine internazionali che si chiedono dove sia finita Gigi. La risposta per confondere nuovamente verità e finzione ce l'ha solo Josh. Lei era troppo. Ad un certo punto non c'era più spazio nel mondo per una come lei. Josh Gosfield e Elisaveta Stoilova, l'artista e la modella, lavorano gomito a gomito per giorni, per settimane. Non è facile inventarsi una vita da zero, creare un mito totalmente dal nulla. Ma ci riescono, curando tutto nei minimi dettagli. Girano perfino un video con protagonista Gigi, inventandosi che l'ha diretto niente meno che Jean-Luc Godard, il grande regista della Nouvelle Vague. Il padre di Josh, il grande musicista blues Lucky Ocean, finge e dichiara di aver comprato la sua chitarra originale, naturalmente come Gigi, mai esistita. Il progetto Gigi Gaston è davvero mastodontico. Impossibile per una galleria non interessarsene. E infatti è una gara. Tutti a New York vogliono ospitare l'intero archivio sulla ragazza Yeye più famosa di sempre, con una storia così pazzesca e soprattutto così inventata. Vince la Steven Kasher Gallery, che inaugura nel 2009 una grande mostra che cattura i media. Se per la galleria è un colpo grosso, lo è ancora di più per Josh. Hanno iniziato a chiedermi interviste, a volermi nei talk show, a chiedermi tutto del mio progetto. Ma era proprio il contrario di quello che volevo fare con la mia idea. Dimostrare quanto i media possono creare illusioni sulla realtà. In galleria molti sono convinti di ricordarsi Gigi, di averla vista, di aver letto le sue avventure quando forse erano più giovani. Una percezione distorta del reale, che è il messaggio che sta a cuore a Josh. Intanto Elisaveta è riuscita a finire su decine di copertine. Certo degli anni 60, quando è il 2009, ma la sua figura suscita così tanto interesse che la sua carriera di modella decolla. Così per entrambi, grazie a Gigi Gaston, inizia una nuova vita. E mentre Elisaveta corre instancabile da un set all'altro, su e giù dalle passerelle, per Josh è il momento di cimentarsi con un'altra creatura. Ha già le idee chiare. Sarà una working class inglese, reginetta di bellezza diventata star dei film horror, che si chiamava Phantom Butterfly e negli anni 60 aveva fatto quasi cadere il governo. Naturalmente per finta. Forse. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24. Okay.